in primo piano. Buongiorno, buona mattina, sono le 7:33 minuti e 5 secondi, vi parla Daniele Biacchiesi su Radio 24. Bossi, Fini deve dimettersi, è il titolo del quotidiano della Lega, La Padania. E poi diciamo da qui tutti gli altri quotidiani, Repubblica, Bossi, basta Fini, subito al voto. Corriere della Sera, Bossi, una palude, voto subito. La Stampa, Bossi subito al voto al fianco del Premier e così via. Cominciamo subito con il racconto dalla Padania, perché andiamo direttamente nei giornali partito. Fini a casa, bisogna uscire dalla palude, Bossi i voti ce li abbiamo noi e Berlusconi. Si dice di Alassio ieri sera, in cui Bossi ha praticamente raccontato in una sorta di conferenza stampa improvvisata il suo pensiero sulle elezioni. La maggioranza non ha più la fiducia del Presidente della Camera, se ti scalino che cosa devi fare? Cercheranno di perdere tempo, di fare un governo tecnico per cambiare le leggi che non vogliono. In politica mai mettere il piede in due scarpe, Casini alleato, per carità, abbiamo già altri casini. E ci sono tante fotografie con i militanti della Lega e le miss che sfilano ad Alassio, il trota accanto al senatur e tutti i vari, tutte le varie fotografie con Bossi, con il suo sigaro. Bossi si è ripreso, direi, alla grande dai suoi problemi di salute di qualche anno fa e che ora detta le regole della politica. Il segretario della Lega dice: questo governo non deve tirare a campare. E ora cominciamo invece a sfogliare gli altri giornali, perché troviamo le varie reazioni, perché questa vicenda delle elezioni in realtà si mischia con storie di varia natura. Una storia politica, che è quella della diatriba tra un fondatore storico come Berlusconi della PDL e il cofondatore Fini, quello che si era portato in dote lo sdoganamento del vecchio Movimento Sociale Italiano. Si dimettano Berlusconi e i ministri imputati, il Premier è il mandante di tutta questa operazione. Pagina 3, Bocchino di Future Libertà su Repubblica. Bocchino, chiede Alessandra Longo, lei sta dicendo parole pesanti, sono adeguate alla situazione. Se vanno avanti di un solo passo siamo alla crisi istituzionale, la sta aprendo il presidente Berlusconi consapevolmente o inconsapevolmente. Nel momento stesso in cui chiede le dimissioni del Presidente della Camera è una deriva pericolosa e gravissima. La nostra Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio dipenda dal Parlamento, che gli dà la fiducia, ma il Parlamento non può e non deve dipendere dal Governo. Questo Bocchino a pagina 3. Intanto il giornale tira dritto, va avanti. I giornali vicini a Silvio. Giancarlo Tugliani ha perfino la Ferrari, la bella vita del cognato è il titolo del giornale. Mandiamo a casa Fini, già raccolte 35.000 firme, rivela il giornale, diretto da Feltri. E Vittorio Macioce scrive l'editoriale ora anche alla politica chiede le dimissioni. Scrive il giornale che qui le firme continuano ad arrivare, 35.000 in due giorni. Non vogliono più Fini come Presidente della Camera, giudizio lapidario, devi dimettersi. I lettori spesso sono più severi dei giornalisti, Fini li ha delusi, stop. La questione Fini non è solo indignazione, non è un processo, non è una condanna. Questa storia ha a che fare con il sale della politica, la casa di Monte Carlo, i favori al cognato, le scorribande a Rai della ditta Tugliani mettono in piazza quello che da tempo si sussurrava. Gianfranco ci guarda da miserabili, ma non è come la moglie di Cesare. L'idea poi che l'eredità di una vecchia signora di Aene sia finita per qualche giro strano in famiglia ha fatto il resto. Questo scrive il giornale. E tutto questo per cosa? Per chi? Per andare dove? Perché queste sono le tante domande che ti fanno i cittadini, e soprattutto che ci importa, dicono alcuni. perché i problemi sono altri e non hanno tutti torti. Il dovere della chiarezza, scrive La Repubblica in prima pagina, un editoriale non firmato. Scrive Repubblica che è re degli impuniti, che si confeziona leggi a persona per sfuggire alle sentenze dei suoi processi, chiede la testa del presidente della Camera per lo scandalo della casa di Monte Carlo. Con ogni evidenza, ciò che gli interessa è dimostrare che chi tocca i fili del berlusconismo muore fulminato dai dossier che il Cavaliere e i suoi apparati raccolgono e confezionano contro tutti. Questo è il messaggio del pranzo tra il premier e Cesare Previti, l'uomo che agita da sempre il fondo più oscuro degli intrighi berlusconiani, quasi a dire: da oggi l'Italia vivrà sotto un governo Berlusconi-Previti e non faremo prigionieri. La prima pagina di Repubblica. Il Fatto, che è abbastanza informato su molte cose, devo dire che al di là delle idee che rappresenta, alcune volte produce notizie, e noi che siamo radio di notizie e un po' meno di opinioni, ci interessa anche raccontare di notizie. Paola Zanca, pagina 3, Il Fatto. Sì, ha capito bene, è stata presentata una denuncia al Copasir per pedinamenti da parte dei servizi deviati nei confronti di parlamentari non graditi, un segnale in perfetta continuità con l'attività di dossieraggio giornalistico contro il presidente Fini. Certo, lo dice Carmelio Briguglio, che non è solo un deputato finiano e lo fa da membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il COPASIR, convinto, dice Paola Zanca, che ci siano ancora in giro pezzi deviati dei servizi segreti, che siano loro a confezionare i dossier. E rivela Briguglio al Fatto che di aver chiesto se uno dei due giornalisti che conducono l'inchiesta sulla casa Monte Carlo sia un omonimo o un parente dell'ex direttore dei servizi condannato per l'affare SIS dal tempo di Oscar Luigi Scalfaro. Ho sottolineato, rivela Briguglio, che le due firme sono state condannate per diffamazione in un caso proprio per articoli sulla proprietà immobiliare, questa volta di Antonio Di Pietro. E poi ho domandato se è possibile che i fratelli Silvio e Paolo Berlusconi non si parlino mai, se non scambino nemmeno una parola sulla linea editoriale del giornale. Questo è Briguglio, noi spiati dai pezzi deviati dei servizi, trovate a pagina 3 del Fatto. E c'è un'altra storia che piace sfogliare i giornali, perché i giornali sono fatti di tante pagine, non solo delle prime. Vediamo sull'Unità, che rivela a pagina 12 una notizia che non sappiamo se è vera, ma comunque viene scritta: Albertini se ne va, Berlusconi gli offre il ministero di Scajola. Dopo 4 mesi dalle dimissioni di Scajola avanza un'altra candidatura per la successione, l'ex sindaco e già presidente di Federmeccanica, che attacca la gestione PDL e può andare con Fini. C'è una fotografia a pagina 12 dell'Unità che ricorda Berlusconi, Moratti e Albertini insieme, quindi il vecchio e il nuovo sindaco di Milano. Le altre storie sono economiche e le prendiamo ovviamente dal Sole 24 Ore. La Fed rilancia la crescita, la Banca Centrale Americana torna ad investire in titoli di Stato a lunga. Superata a maggio la fase più acuta della crisi, scrive Carlo Bastasini, in Italia c'è stata una caduta di tensione sui rischi dell'economia. In solo poche settimane le priorità della polemica interna si sono violentemente scrollate di dosso i vincoli di razionalità imposti dalle difficoltà. Gli ultimi dati da Washington, Pechino, Berlino consigliano minore spensieratezza. L'imbarazzo in cui si è trovata la Federal Reserve americana, le prese con una disoccupazione più insidiosa del previsto, una politica fiscale immobilizzata dai debiti, rende l'idea delle difficoltà dell'economia globale. La produttività del lavoro americano, scrive Bastasin sul Sole 24 Ore, È tornata a scendere, le previsioni sulla crescita americana per il 2011 sono state tagliate di un punto da inizio anno. La Fed ha ammesso che la crescita americana sarà più modesta del previsto, dovrà acquistare titoli del tesoro a lungo termine per ridurre i tassi dei mutui. Solo pochi mesi fa si pensava che alzasse i tassi, ora una ricaduta in recessione non può essere esclusa. Sfogliamo invece la stampa, perché comunque di vicende economiche è piena anche la stampa. Alberto Bisin, la sterzata che serve all'America. Scrive Bisin che la Fed e la Reserve ha dovuto ammettere ieri quello che ormai stava diventando chiaro a tutti gli osservatori dell'economia americana, che la ripresa ha perso fiato, i dati che provengono dai mercati sono preoccupanti, insomma sono problemi seri. Da un lato non si può certo argomentare che la politica economica sia con le mani in mano, la politica monetaria della Fed è fortemente espansiva e di conseguenza l'economia americana nuota nella liquidità. Ma ciò nonostante non si intravedono spinte inflazionistiche, l'economia rimane anemica, come in stallo, con un tasso di disoccupazione che non accenna a diminuire. Infine, sul Corriere della Sera, le invasioni della politica in prima pagina, è Francesco Giavazzi che ci ricorda quali sono secondo lui le condizioni per uscire dalla crisi. Una crisi finanziaria, scrive Giavazzi, di cui si compie un triennio, ha avuto una radice comune sia negli Stati Uniti che in Europa. La corruzione della politica. Oltre Atlantico si consentì che Wall Street diventasse il maggior finanziatore delle campagne elettorali americane, così acquisisse il potere di gettare le proprie regole al Congresso. In Germania i presidenti dei Länder spingevano le casse di risparmio, di cui sono i maggiori azionisti, di concedere prestiti e condizioni di favore alle aziende della loro regione. E questo è il racconto molto interessante di Giavazzi che trovate in prima pagina del Corriere. 7.45 il traffico, poi riprendiamo dalla legge salva Mondadori. In primo piano. 7.45 minuti e 58 secondi e Daniele Biacchesi su Radio 24 che sta sfogliando i giornali per voi. Molti sono i temi, la legge salva Mondadori, come scrive in prima pagina Repubblica, ed è naturalmente una storia che si intreccia molto con la politica, ma qui si parla in questo articolo di Sara Benevitz e di Ettore Livini di una legge che doveva essere una legge Mondadori, è stata la casa editrice controllata da Fininvest, si avvia a chiudere con una mini transazione da 8-6 milioni, un contenzioso quasi ventennale in cui l'Agenzia delle Entrate le contestava il mancato pagamento di 173 milioni di tasse evase nel 91 in occasione della fusione tra AMEF e Arnoldo Mondadori. Segrate ha già contabilizzato a tempo di record nella sua semestrale il versamento della sanzione per calare il sipario alla partita con l'amministrazione finanziaria grazie ad un decreto, il decreto legge 25 marzo 2010, numero 40, si tratta in soldoni, scrive Repubblica, del cosiddetto lodo Cassazione, un provvedimento contestato dall'opposizione per il conflitto di interessi del Premier che consente di archiviare i processi tributari arrivati in Cassazione con due sentenze favorevoli al contribuente mediante il pagamento del solo 5% del valore della lite. È una delle notizie che trovate su Repubblica. Veniamo alle gravi storie di alluvioni. La prima la racconta La Stampa, che ha un reportage al suo interno e dà molto spazio alla storia di Riccardo, 23 anni, studiava medicina, faceva il volontario. Questo ragazzo, Riccardo Pitton, uno studente di medicina torinese, morto nelle alluvioni dell'Himalaya, dell'Ladakh, il gigante buono, così i bambini del centro religioso culturale Valmiana chiamavano Riccardo. Un gigante per la statura, 2 metri d'altezza, abilmente sfruttati nel basket, buono per la pazienza, la dedizione con cui li aiutava a svolgere i compiti. La cifra umana di Riccardo Pitton, 23 anni, brillante studente universitario alla facoltà di medicina, era proprio quello spirito altruistico, quell'abnegazione sincera che lo avevano spinto sulla strada del volontariato e della cura degli altri. Lo aveva fatto durante le Olimpiadi invernali del 2006 e continuava a farlo all'interno dell'associazione religiosa. Grazia Longo, pagina 3, il reportage, il ritratto su questo Riccardo che se n'è andato nelle alluvioni, nel fango, mentre era, come dice, come scrivono i compagni di viaggio, proprio l'Himalaya, il loro sogno fin dal liceo. Una brutta storia che coinvolge anche molti altri italiani che sono fermi, che sono bloccati da molto tempo, da molte ore nel Ladakh. Un'altra storia viene dall'Afghanistan e ce la racconta il Corriere della Sera, esattamente Davide Frattini. È un reportage da Segna Rai in Afghanistan, nell'inferno afghano sotto il fuoco dei talebani. A pagina 17 lo trovate, ci sono anche fotografie, alcune inedite. È un vero e proprio reportage all'interno della rete talebana. Vediamo appunto le storie. Sei bambini che corrono lungo il fosso, un rifugio più vicino che è un piccolo ponte che salta sulla melma. Si nascondono là sotto, stavano portando le pecore al pascolo. Gli RPG rimbombano, gli AK-47 dei talebani e gli M4 degli americani fanno da sottofondo. I soldati afghani rispondono con i lanciarazzi, i calibri pesanti, i 50 mm montati sul fuoristrada. Sono passati pochi minuti, il capitano Lonnie Greer coordina gli uomini per rispondere all'attacco, che martella da tre lati, sud-est e ovest. A nord alle spalle c'è il deserto ed è improbabile che vogliano accerchiarci da lì, ci troverebbero in campo aperto, potremmo centrarli con i missili dagli elicotteri, commenta il sergente maggiore Bobadiglia. Un gruppo di soldati, scrive Frattini sulle pagine interne del Corriere, corre accovacciato lungo il muro di fango. Per coprirli Gibson, il gunner, piazza il fucile mitragliatore alla base di un albero. Adesso bisogna avvertire i militari afghani. Gli americani ora si stanno muovendo, i locali sparano senza intervalli al pericolo dei talebani, si aggiunge il rischio del fuoco amico. E poi c'è un altro pezzo che questa volta lo racconta Guido Limpio, sempre sul Corriere, che è la via turca delle armi per Hezbollah. Questa è una storia che avevamo già seguito, ma che viene ripresa, anche se in breve, da Olimpio sulle pagine interne del Corriere. Scrive Olimpio che l'Hezbollah, sicuro della sua forza e consapevole del proprio peso politico, cerca altre armi e le avrà attraverso un nuovo canale, da quello apparato segreto dei Pasdaran insieme ai turchi. I dettagli sono stati stabiliti durante un recente incontro che ha avuto come protagonisti il capo degli 007 dei Pasdaran, Hussein Taeb, e il nuovo responsabile dei servizi turchi, Hakan Fidan, ritenuto un duro pronto ad allacciare rapporti con il regime integralista sciita. La via turca, come è stata definita dai fonti occidentali, servirà per l'invio di carichi bellici sofisticati. Sono le pagine interne del Corriere, tra reportage e rivelazioni di politica internazionale. C'è una storia che sta seguendo da molti giorni il Messaggero, è quella dell'amianto, il rapporto tra amianto e scuole. Questa volta il Messaggero rivela che dopo l'inchiesta del giornale interviene il ministro Gelmini. Presto si comincerà una seria bonifica dell'amianto nelle scuole italiane, lo assicura il ministro Gelmini dopo aver letto questa inchiesta del Messaggero, dopo aver riconosciuto che è stata posta una questione reale che riguarda tutti, studenti, insegnanti, genitori. I soldi ci sono, alla fine sono stati trovati, si tratta di 375 milioni di euro sbloccati qualche giorno fa dal CIPE, che probabilmente saranno utilizzati già dal mese di ottobre. Alla bonifica dell'amianto sarà data la massima priorità, assicura il ministro, e l'anagrafe dell'edilizia scolastica italiana attesa da 14 anni dice è quasi pronta, è 100 pagine del Messaggero. Infine, la Gazzetta dello Sport. La Gazza in prima pagina ci ricorda che quella che abbiamo visto ieri sera era in realtà una piccola Italia. A Londra la Costa d'Avorio ci batte per 1-0. Prandelli sconfitto all'esordio, ma lo spirito nuovo c'è, così secondo la Gazzetta dello Sport. La squadra deve ancora lavorare molto. Palo colpito da Motta, Balotelli migliore degli azzurri. E Luigi Garlando ci scrive che abbiamo perso anche contro la Costa d'Avorio dell'ex ascolano Zawi, vecchio amico da 90° minuto, ma non buttiamoci giù. I nuovi azzurri di Prandelli sono venuti a Londra come studenti in vacanza studio. Il loro compitino non va giudicato solo dagli errori, ma anche dalle prospettive. Hanno iniziato e chiuso l'attacco. Quando allo spirito si aggiungeranno le gambe, ne riparliamo. Lo trovate in prima pagina della Gazzetta dello Sport. È tutto.